Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Londra ormai è a portata di mano, come Bruxelles, come Parigi, come le altre città. Sono i luoghi dove i nostri figli studiano. Noi dobbiamo avere la forza di dire che l'Europa, se vuole fare le cose sul serio, deve mettere più denari sulla sicurezza, sulla polizia, sulla difesa e togliere tutti i vincoli del patto di stabilità dalle spese che servono per proteggere le nostre città e per proteggere la nostra gente. Questa è una cosa che si può fare e speriamo che si faccia presto. Così ha parlato Matteo Renzi questa sera al TG5, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dopo quello che è successo oggi, l'attacco terroristico a Londra, quindi l'ISIS, o ancora insomma non ci sono rivendicazioni, ma comunque i terroristi che tornano a colpire nel cuore dell'Europa davanti al Parlamento britannico. Ci sono almeno 4 morti secondo il primo bilancio, 20 feriti, insomma di nuovo una scia di sangue e il terrore per l'appunto che ritorna nel nostro continente. Ne parleremo questa sera, tra l'altro con una edizione speciale di Effetto Notte, quindi saremo insieme sino alle 23, resistete, cercate di rimanere sveglie e svegli perché sono tanti i fatti di cui parleremo. Naturalmente ci concentreremo soprattutto su questo, ci collegheremo più volte con Londra e sentiremo anche degli analisti, degli esperti su come leggere, come interpretare questo ennesimo attentato, e poi ci occuperemo anche di altri fatti, per esempio della sparata del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che ha detto i paesi del sud Europa spendono i soldi in donne e alcol e poi chiedono aiuti. Allora tutti naturalmente si sono sentiti offesi, i paesi del sud, ma prima di tutto è da considerare che sono state offese per l'ennesima volta le donne, no? Dopo la chiusura del programma Parliamone Sabato, aveva fatto questa lista delle ragazze dell'est e delle loro doti di donne sottomesse e perfette casalinghe, lui addirittura le degrada a merce, nel senso sono acquistabili come l'alcol, le donne, magari altri vizi da parte degli uomini. Quindi molti argomenti anche questa sera, ma in particolare staremo sull'attentato a Londra, e potete chiamare per la prima ora soprattutto il numero verde 800 24 00 24, quindi telefoni aperti, microfoni aperti a voi ascoltatrici e ascoltatori. C'è anche il numero, sempre quello per i messaggi, che è il 349 238 6666, e poi lo sapete lì per voi giorno e notte la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte. Ricordatevi il numero verde 800 24 00 24 per dire quali sono le vostre sensazioni, le vostre impressioni, le vostre riflessioni con questo ennesimo attentato. Io intanto vi riassumo le notizie più importanti. Attacco terroristico a Londra, sono 3 le persone rimaste uccise, 20 feriti, alcuni gravissimi, un primo bilancio, ucciso l'assalitore che avrebbe agito da solo falciando i passanti con un SUV e poi armato di coltello aveva tentato di entrare in Parlamento. Roma, controlli intensificati in vista delle celebrazioni europee del 25 marzo, attesi migliaia di manifestanti no euro, Minniti convoca il comitato antiterrorismo. Incidente ferroviario, un pendolino di Trenitalia partito da Milano e deragliato in Svizzera, 3 feriti e forti ritardi. I costi della politica, scoppia di nuovo il caso Vitalizzi, bocciata la proposta dei 5 Stelle e introdotto un contributo di solidarietà per gli ex deputati. Siria, truppe speciali americane arrivate vicino a Raqqa, la capitale dell'ISIS nel paese. La sparata del presidente dell'Eurogruppo, in un'intervista a un quotidiano tedesco, Dijsselbloem dice: gli stati del sud spendono in alcol le donne e poi vogliono gli aiuti. Presa di distanza dell'Unione Europea, si chiede che vada a casa al più presto. Taxi, confermato lo sciopero di domani dalle 8 alle 22, non ci sono le garanzie per dare tranquillità alla categoria, dicono i tassisti. Calcio, dalla stagione 2018-2019 l'Italia avrà 4 posti in Champions League, l'ufficialità è arrivata dalla UEFA. E partiamo quindi appunto dall'attacco terroristico a Londra davanti al Parlamento britannico, 3 morti e diversi feriti in gravissime condizioni, 20 secondo Scotland Yard, ma purtroppo sembra un bilancio ancora provvisorio. Un'auto ha travolto intorno alle 2:20 diversi passanti sul ponte di Westminster, poi si è schiantata contro la cancellata che cinge il Palazzo del Parlamento. Dalla macchina è sceso un uomo che, armato di coltello, ha tentato di entrare nel cortile ferendo a morte un poliziotto prima di essere colpito e ucciso dalle forze dell'ordine. I morti, se si considera anche l'assalitore, sono dunque 4, tra cui anche una donna e una vittima non ancora identificata. Al momento, riferisce il consolato italiano della capitale britannica, non risultano cittadini italiani coinvolti nell'attacco di Londra, ma poco fa invece ho visto, mentre vi parlavo, un'agenzia in cui si parla di una ragazza italiana leggermente ferita. Mattarella in un messaggio, cioè solidarietà naturalmente a tutta Europa, alla Gran Bretagna, Mattarella in un messaggio alla regina Elisabetta ha scritto: ancora una volta l'odiosa e insensata violenza del terrorismo ferisce il Regno Unito nell'inutile tentativo di minare i valori di libertà. Nel combattere ogni forma di terrorismo il Regno Unito potrà contare sul fermo impegno dell'Italia. Anche il presidente Trump, presidente americano, parlando con la prima ministra britannica Theresa May oggi dopo l'attacco, ha assicurato piena collaborazione e sostegno dal governo americano alla Gran Bretagna. L'attacco terroristico di Londra dimostra che l'intelligence non può abbassare la guardia. E mentre la premier britannica Theresa May ha riunito nella capitale inglese il comitato d'emergenza Cobra, a Washington, tra misure di sicurezza eccezionali, si sta svolgendo il summit della coalizione globale anti-ISIS guidata dagli Stati Uniti con la partecipazione di 68 tra paesi e organizzazioni internazionali. L'Italia, rappresentata dal ministro degli esteri Alfano, richiamerà l'attenzione sulla priorità della Libia. Previsto anche l'intervento del capo della diplomazia europea Federica Mogherini. L'obiettivo è fare il punto sull'offensiva contro l'ISIS e discutere come rafforzare la campagna contro il califfato, accelerando la liberazione di Mosul, obiettivo strategico ancora nelle mani dello Stato Islamico. Intanto il timore di attacchi terroristici ha portato a nuove limitazioni nel bagaglio a mano di chi viaggia in aereo. Il governo statunitense, subito a ruota quello britannico, hanno infatti temporaneamente messo al bando PC, tablet, lettori DVD, videocamere ed altri dispositivi più grandi di uno smartphone sui voli in ingresso nel Regno Unito e negli Stati Uniti provenienti da alcune nazioni a maggioranza islamica. Nel frattempo, nel nostro paese, il ministro dell'Interno Minniti ha convocato per domattina una riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo dopo l'attacco di oggi a Londra. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi, come vi dicevo, nel corso di queste due ore, perché andremo avanti eccezionalmente questa sera con Effetto Notte sino alle 23, ci collegheremo più volte con Londra per avere gli aggiornamenti. E quindi arriva questo attentato 12 anni dopo l'attacco kamikaze nel metro di Londra. Sono passati 12 anni, esattamente anche un anno dopo gli attentati, ricordate che ci sono stati sanguinosi a Bruxelles, nella metropolitana e all'aeroporto. Quindi il terrorismo torna a colpire l'Europa. Lo chiedo a Lorenzo Vidino, che è analista dell'ISPI, esperto di terrorismo, nonché direttore del programma sull'estremismo alla George Washington University, coordinatore a Palazzo Chigi della commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Se non ce la dà lei, Vidino, la risposta che ce la deve dare con tutto questo. Buonasera, sì, indubbiamente abbiamo una dinamica ormai vista purtroppo negli ultimi 3-4 anni, in particolare dal momento in cui lo Stato Islamico è diventato un attore globale. Abbiamo visto una serie ormai molto lunga di attentati, secondo ormai circa 40 attentati in Europa negli ultimi 4 anni, alcuni di questi compiuti da soggetti legati da un punto di vista operativo allo Stato Islamico, quindi che rispondono a una sollecitazione che arriva direttamente dalla leadership del gruppo in Medio Oriente, altri commessi da soggetti legati solo dal punto di vista ideologico, cosiddetti lupi solitari, che non hanno un rapporto operativo con nessun gruppo, ma che sono ispirati dall'ideologia e che decidono di attivarsi, di compiere attentati spesso spontanei, anche rudimentali, amatoriali, però in certi casi molto molto letali, come quello di Nizza, o adesso chiaramente da vedere la dinamica esattamente di Londra, chi c'è dietro, però insomma sembra corrispondere a questo secondo tipo di dinamica, cioè di attacco abbastanza spontaneista, lo definirei. Ma Vidino, tra l'altro, e poi ne parleremo anche più tardi qui Effetto Notte con il presidente del COPASIR Giacomo Stucchi, naturalmente l'Italia, Roma, la capitale, si sta preparando tra 3 giorni, il 25 marzo, sabato, no? Ci sono le celebrazioni per il 60° anniversario dei Trattati di Roma. Chiaramente già c'era allerta, prima preoccupazione, anche perché si aspettano infiltrati, antagonisti, ma c'è a questo punto anche l'ombra del terrorismo. Sì, beh, questo comunque era già noto, calcolato. Direi che ormai già assolutamente qualsiasi grande evento del genere, ma come il Giubileo qualche mese fa, si sa che attrae l'attenzione di gruppi terroristi. Diciamo che però il terrorismo di matrice jihadista colpisce una gamma di obiettivi molto ampia, che vanno appunto da grandi eventi a obiettivi molto simbolici, come può essere Westminster, il Parlamento inglese, a obiettivi molto, molto random in un certo senso, i classici soft target, c'è cioè un centro commerciale di periferia, un piccolo ristorantino, una chiesetta, ricordiamoci lo sgozzamento di quel prete in una piccola città della Francia del Nord, insomma non esattamente un obiettivo che uno avrebbe potuto immaginare essere un obiettivo primario del terrorismo jihadista. E quindi essendoci proprio questa gamma di obiettivi talmente ampia, dà poi di conseguenza un'impossibilità pressoché totale per le forze dell'ordine e di intelligence di capire, di prevenire e di porre in essere misure che chiaramente sono buone, perché parliamo comunque, prendendo l'Inghilterra come esempio, negli ultimi 4 anni le autorità inglesi hanno sventato 13 attentati, questo era stato detto dal capo dell'antiterrorismo inglese proprio 2 settimane fa. È chiaro che però qualcosa passa anche tra le maglie più strette, e quindi se è andata bene 13 volte la 14ª è andata male. Quindi per chiudere, Lorenzo Vidino, è purtroppo un fenomeno, come possiamo definirlo, anche se troppo politicamente carsico, che ogni poco ci si può aspettare che ritorni fuori, e ci si chiede sempre dell'Italia, no? Finora lei che cosa pensa, visto che appunto è anche coordinatore a Palazzo Chigi della commissione di studio sul fenomeno della l'Italia vede dinamiche simili a quelle degli altri paesi europei, cioè soggetti radicalizzati, alcuni legati operativamente allo Stato Islamico, altri indipendenti, solo ideologicamente legati all'ISIS, esistono in Italia come in ogni altro paese europeo. Diciamo che nessun paese, anche una Svizzera o un Portogallo, diciamo che però i numeri italiani sono ridotti rispetto a quelli dei grandi paesi europei, non sono i numeri francesi, inglesi, tedeschi o anche di paesi come il Belgio, avete ricordato prima gli attentati di un anno fa, sono paesi che sono toccati da questo fenomeno in maniera maggiore rispetto all'Italia. E a fronte di ciò esiste un lavoro ottimo dei nostri servizi, del nostro apparato antiterrorismo, che avendo anche il lusso di poter lavorare su numeri minori rispetto agli altri paesi, ma anche in virtù di un'esperienza e di un quadro normativo molto attrezzato, consente un lavoro che ha dato i suoi frutti in questi ultimi anni, insomma non siamo stati toccati. Detto ciò, basta appunto un soggetto che dall'oggi al domani decida di usare il proprio veicolo, usare un coltello da cucina per compiere un attentato, questo insomma è chiaramente imprevedibile. Sfugge, dice, e purtroppo può succedere ovunque. Quindi. Grazie intanto Lorenzo Vidino, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. E intanto, in vista dell'anniversario del 25 marzo, questa mattina in Parlamento ha parlato il Presidente della Repubblica Mattarella. Non muri che scarichino i problemi sugli altri senza risolverli, bensì solidarietà tra paesi, tra generazioni, tra cittadini. Fatti gli europei, è ora necessario fare l'Europa, dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, citando capovolte le parole di Massimo D'Azeglio. Una sferzata insieme a un monito ai capi di Stato e di Governo che sabato si riuniranno a Roma, come a dire che gli europei ci sono, a cominciare dalla tanto evocata generazione Erasmus, ma ora lo scatto tocca ai governi. L'Europa ha proseguito nell'aula di Montecitorio davanti a senatori e deputati insieme per l'occasione, non può permettersi di rinviare gli appuntamenti con la storia. Un riferimento, forse, anche a quell'accordo che i 28 firmeranno, un testo di compromesso che già molti definiscono al ribasso. Parole non diverse da quelle della Presidente della Camera Boldrini e del Presidente del Senato Grasso. Una lunga standing ovation ha concluso l'intervento durato circa 20 minuti di Mattarella, ma in aula non c'erano tutti. 30 gli esponenti del Movimento 5 Stelle, assente la Lega di Salvini, sempre più anti-europeista. Del Carroccio presente solo Umberto Bossi. Preferisco sempre sentire le cose per poi ragionarci, si è limitato a commentare. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di solidarietà e collaborazione nell'Unione Europea, ma anche di considerazione delle donne a livello di merce acquistabile dagli uomini, avete sentito, e ne parleremo più tardi, anche cosa ha detto il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Per quanto riguarda la politica italiana, gli ex deputati che percepiscono un vitalizio dovranno versare un contributo di solidarietà in relazione al reddito. Sarà del 10% per chi percepisce da 70 a 80 mila euro lordi, per arrivare al 40% nel caso di quelli superiori a 100 mila euro. La misura permetterà di risparmiare 2 milioni e mezzo l'anno, ma i deputati grillini protestano contro la misura proposta dal PD e approvata in ufficio di presidenza dalla Camera. Poi parleremo anche di questo, decisione sui vitalizi. C'è stato poi tra l'altro oggi un incidente ferroviario, un pendolino di Trenitalia che è partito da Milano e deragliato in Svizzera, e l'incidente è avvenuto intorno alle 14. Una carrozza del Cisalpino di Trenitalia con a bordo 160 passeggeri si è praticamente sdraiata su un fianco in uscita dalla stazione di Lucerna, traffico ferroviario bloccato, e secondo il primo bilancio i feriti sarebbero almeno 7. Poi più tardi vediamo di collegarci anche con Lucerna. Di nuovo in Italia per parlare di taxi, i sindacati dei tassisti hanno indetto lo sciopero per domani dalle 8 alle 22, confermano quindi lo stop a livello nazionale delle auto bianche. Dicono, spiegano i tassisti, prendiamo atto della buona volontà del governo di ripristinare il rispetto delle regole nel settore contrastando l'abusivismo, ma non ci sono le garanzie per dare tranquillità alla categoria. E poi i giovani e l'età dell'indipendenza, questo studio insomma non molto confortante che dice che la strada dei giovani per rendersi autonomi economicamente dalla famiglia d'origine in Italia diventa sempre più lunga. Se nel 2004 a un ventenne erano necessari 10 anni per diventare autonomo, nel 2020 saranno necessari 18 anni, mentre nel 2030 ne potrebbero servire 28 in pratica in brevissimo tempo. Secondo lo studio della Fondazione Visentini presentato oggi alla LUIS, si raggiungerà in media l'indipendenza economica alla soglia dei 40 anni, mentre tra pochi anni si sarà indipendenti dalla famiglia a 50 anni. Poi magari torniamo a parlare anche di questo argomento, visto che siamo insieme sino alle 23. Per musica e politica, questa notizia: l'Ucraina ha vietato l'ingresso nel paese a Yulia Samoilova, la cantante pop disabile nominata rappresentante della Russia all'Eurovision che si terrà a maggio. La Samoilova è colpevole, secondo Kiev, di aver cantato in Crimea nel 2015. Mosca descrive la decisione come obbrobriosa, cinica e inumana. Per chiudere, una notizia di calcio: dalla stagione 2018-2019 l'Italia avrà 4 posti in Champions League, l'ufficialità è arrivata dalla UEFA. Spagna, Germania, Inghilterra e Italia si sono confermate i primi 4 posti del ranking della classifica per federazioni, indipendentemente da ciò che accadrà nei quarti del torneo in corso e a prescindere dall'esito di Champions e Europa League. Direi che a questo punto ci possiamo fermare, aggiorniamo chi sta viaggiando. Vi ricordo ancora una volta che siamo insieme eccezionalmente sino alle 23, perché ci collegheremo più volte con Londra per avere aggiornamenti su quanto è successo oggi. Poi ci sono molti temi e voi potete chiamare questa sera il numero verde 800 24 00 24, eccezionalmente numero verde aperto alle vostre telefonate 800 24 00 24, poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i messaggi e WhatsApp che è 349 238 6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve l'ho riassunte, come sempre, nella sintesi della giornata, le notizie più importanti, naturalmente quella principale sulla quale torneremo più volte nel corso di questa puntata speciale di Effetto Notte, perché saremo insieme anziché sino alle 22 sino alle 23, è appunto quella dell'attentato che c'è stato oggi a Londra vicino al Parlamento a Westminster. Potete telefonare oggi eccezionalmente qui a Effetto Notte 800 24 00 24, il numero verde per voi, per dire le vostre sensazioni, le vostre impressioni, delle riflessioni che avete fatto su quanto è successo. Avete sentito già un analista poco fa che è anche consulente del governo Vidino, che ha detto che insomma l'Italia sicuramente ha un'intelligence preparatissima, che ha diciamo la situazione piuttosto sotto controllo, e però naturalmente se ci sono questi cosiddetti, chiamiamoli lupi solitari, ma è un nome fin troppo diciamo pregevole per loro, è difficile insomma tenere tutto sotto controllo, così come è successo appunto oggi a Londra. Per i vostri messaggi anche la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure il 349 238 6666. Allora, prima di cominciare ad aggiornarci con le ultime notizie da Londra, tra poco ci colleghiamo, vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, l'attacco terroristico a Londra, sono 3 le persone rimaste uccise, 20 feriti, alcuni gravissimi. Ucciso l'assalitore che avrebbe agito da solo falciando i passanti con un SUV e poi armato di coltello aveva tentato di entrare anche in Parlamento. Roma, controlli intensificati in vista delle celebrazioni europee del 25 marzo, attesi migliaia di manifestanti anti-euro. E poi Minniti convoca il ministro dell'interno il comitato antiterrorismo. Incidente ferroviario, un pendolino di Trenitalia partito da Milano e deragliato in Svizzera, 3 feriti e forti ritardi. I costi della politica, scoppia di nuovo il caso Vitalizi, bocciata la proposta dei 5 Stelle e introdotto un contributo di solidarietà per gli ex deputati. Siria, truppe speciali americane arrivate vicino Raqqa, la capitale dell'ISIS nel paese, e poi la sparata del presidente dell'Eurogruppo. In un'intervista a un quotidiano tedesco, Dijsselbloem dice: gli stati del sud spendono in alcol e donne e poi vogliono gli aiuti. Presa di distanza dall'Unione Europea, Renzi chiede che vada via al più presto. È stato confermato per quanto riguarda i taxi lo sciopero di domani dalle 8 alle 22 e per il calcio, questa notizia che è ufficializzata dalla UEFA, dalla stagione 2018-2019 l'Italia avrà 4 posti in Champions League. E saluto adesso il nostro Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Ciao Leonardo. Buonasera a tutti voi. Allora, ci racconti di nuovo in sintesi che cosa è successo oggi a Londra? La sequenza comincia alle 14.40 ora di Londra, quando un SUV, uno Hyundai di colore scuro, attraversa il ponte di Westminster, il ponte sul Tamigi che costeggia le Houses of Parliament, insomma la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord, e a velocità sostenutissima e investe quelle che saranno almeno una ventina di persone. Dopodiché si va a schiantare o va a fermarsi di fianco all'inferriata dell'ingresso da dove entrano in Parlamento sia i ministri che la signora May, la primo ministro, la premier britannica, questa zona che si chiama Palace Yard, che è una delle zone più controllate ovviamente di tutto il Regno Unito. Entra un uomo sui 40 anni che era appena sceso dal SUV correndo con un coltello in mano, e un uomo di origine asiatica secondo le testimonianze di chi lo ha visto, e si avventa su un poliziotto, lo accoltella ripetutamente, dopodiché fa altri 15-20 metri dentro il Parlamento. Siamo già all'interno del perimetro del Parlamento britannico, va dentro l'edificio, e a quel punto ci sono 2 agenti della sicurezza in borghese che gli intimano di fermarsi, gli sparano e lo uccidono. E l'attentatore è morto, in tutto ci sono 4 morti, l'attentatore più 3 persone, uno è il poliziotto e 2 sono passanti che erano sul ponte che sono stati investiti. Però ci sono una ventina di feriti, 12 dei quali in condizioni piuttosto gravi, alcuni gravissime. Tra l'altro ci sono anche 3 ragazzini francesi che erano in visita con una comitiva scolastica in visita a Londra, e ovviamente una delle tappe inevitabili è il Parlamento. Leonardo, tra l'altro adesso leggo 2 notizie contrastanti, una la dà l'ANSA, l'altra TM News. L'ANSA dice: attacco Londra, il Foreign Office dice nessun italiano tra i feriti, mentre l'altra agenzia di TM News dice attacco Londra, anche una giovane italiana tra i feriti. A te cosa risulta? No, non risulta che non ci siano assolutamente italiani tra i feriti. E adesso il bilancio è definitivo di 4 morti? Il bilancio non può essere definitivo perché ci sono feriti molto gravi. Una decina di feriti molto gravi, quindi sarà una cosa che si andrà a sviluppare nella notte. Ovviamente la città è in qualche modo sotto assedio, perché poi c'è questa equivoca ricostruzione in cui si dice almeno dal SUV è sceso almeno un uomo. Resta il dubbio che possa esserci un gruppo solitario, ma che forse siano 2. È un dubbio, perché in realtà le autorità sono molto molto riservate in questo momento. Hanno semplicemente detto che trattano l'episodio come un fatto terroristico, ma non hanno fatto alcun riferimento a radicalismo islamico e a quant'altro, anche se inevitabilmente il pensiero corre lì, perché la Gran Bretagna, che pure ha avuto un numero limitato di attentati gravi, ma pochi in questi anni, dal 2001 ad oggi sono stati 3 circa, tra i quali quello famoso del 7 luglio del 2005, però ci sono stati almeno 17 sventati, attentati da parte dei servizi di sicurezza britannici, che sono servizi eccellenti. C'è il controspionaggio, l'MI5 inglese, e in generale le attività di intelligence britanniche sono note. Leonardo, comunque non c'è ancora nessuna rivendicazione, quindi si parla di questo asiatico, quarantenne, e ancora non è chiaro se sia. Non so se dal giro per il mondo qualche sito abbia rilanciato, mi pare che ci sia qualche cosa di siti che rivendicano i morti di Mosul, eccetera, però diciamo di come informazione ufficiale da Londra sulla matrice dell'attentato non ci sono indicazioni. Grazie Leonardo Maisano da Londra. Ciao Leonardo, buon lavoro. Ciao. Order! I am now going to suspend the sitting of the House. This House is now suspended, but please wait here. Avete sentito alcune voci del momento, insomma, concitato naturalmente, in cui c'è stato l'attentato e poi la sospensione della seduta del Parlamento che è stata annunciata. Ma adesso, ritornando invece sulle questioni italiane, che comunque sono internazionali, visto che siamo in un consesso europeo e non soltanto, vorrei chiamare in causa Giacomo Stucchi, che è presidente del COPASIR. Buonasera Stucchi. Buonasera. Che ricordo è il comitato di parlamentare di sicurezza per la Repubblica, di controllo sui servizi segreti. Dicevo prima con Vidino, l'analista dell'ISPI, che appunto 25 marzo, tra pochissimo sabato, c'è il 60° anniversario dei trattati europei, quelli che hanno dato, trattati di Roma, che hanno dato vita poi all'Unione Europea, e naturalmente l'Italia è un po' in fibrillazione, la capitale, perché si aspettano già da tempo, da giorni fa si parlava di possibili infiltrati, di antagonisti, però c'è anche la paura, naturalmente già messa in conto, di attacchi terroristici, no? Leggevamo che il ministro dell'interno Minniti ha convocato per domani mattina una riunione straordinaria del comitato di analisi strategica antiterrorismo. Sì, domani mattina alle 9:30 c'è questa riunione del CASA, a cui seguirà alle 10:30 una riunione proprio del COPASIR, con la presenza del direttore dell'Agenzia dei Servizi Interni, per fare il punto della situazione sulle manifestazioni di sabato, ma soprattutto su, diciamo, declinate in chiave molto attuale, su quelle che potrebbero essere le ulteriori azioni da intraprendere in termini di sicurezza dopo quello che è accaduto oggi a Londra. Perché ricordiamo che in queste celebrazioni proprio, diciamo, c'è il, parte manifestazioni, eventi eccetera, il vertice a cui parteciperanno tutti i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione Europea, quindi insomma una cosa enorme, no? Da tenere sotto controllo. Molta attività di prevenzione da svolgere, molta attività di controllo sul terreno da svolgere durante la presenza dei capi di Stato e di Governo, e purtroppo anche tutta una serie di manifestazioni che sono previste e che bisogna preventivamente individuare per quanto riguarda la pericolosità e le possibili criticità delle stesse. Comunque Stucchi, vi sentite pronti, nel senso è stato predisposto tutto il necessario? Ma guardi, io ho sempre visto nell'attività del nostro comparto intelligence un'azione di prevenzione e di informazione che si è svolta in modo puntuale, quindi c'è una, diciamo così, un'ipotesi per quanto riguarda questi possibili avvenimenti, le possibili criticità, che devono essere contrastate in modo da contenere, diciamo, determinate manifestazioni che nell'intenzione di certi soggetti devono essere violente, impedire appunto che questi possano sfociare nella violenza ed impedire che si possano essere dei danni rilevanti ma anche marginali alla città e comunque a tutto ciò che riguarda il contesto di queste cerimonie, che dovrebbero essere un momento di unificazione ma che diventano invece motivo per alcuni di manifestare in modo violento un dissenso, e questo non può essere tollerato. E insomma, immaginiamo e speriamo che vada tutto per il meglio. Grazie, allora buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Direi che allora ci possiamo fermare brevemente per la pausa pubblicitaria. Voi eccezionalmente questa sera potete anche telefonare qui Effetto Note per dire qual è il vostro stato d'animo, il fatto che di nuovo sia stata colpita l'Europa, il cuore dell'Europa, molti l'hanno definito il cuore della democrazia, il Parlamento di Londra. Quali sono le vostre sensazioni, le vostre riflessioni? 800 24 00 24, un numero verde, se no c'è il numero per i messaggi WhatsApp che è 349 238 6666, altrimenti se preferite la pagina Facebook di Effetto Notte 349 238 6666 oppure 800 24 0024. Torniamo a momenti. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan, Leonardo Manera e altri ospiti vi aspetta domenica 26 marzo al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Platone, la caverna dell'informazione. Il lato comico dell'attualità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano, e siamo insieme sino alle 23 questa sera per questa puntata speciale in cui ci collegheremo spesso con Londra e con analisti esperti antiterrorismo per capire intanto quali sono gli ultimi aggiornamenti, le ultime notizie. Ci sono anche delle informazioni contrastanti, per esempio un'agenzia diceva che c'era una giovane italiana ferita, mentre un'altra diceva che non c'è nessun italiano ferito a Londra in questo attentato davanti al Parlamento. E anche il nostro corrispondente del Sole 24 Ore, Leonardo Maisano, diceva che non ha notizia di italiani che siano coinvolti in questo attentato in cui sono morte 4 persone, 3 persone in realtà sono le vittime, uno è l'assalitore che è stato ucciso, che con un SUV ha falciato un po' di persone, un po' di passanti appunto vicino al palazzo del Parlamento, poi è sceso dalla macchina, ha cercato di entrare al Parlamento, ha coltellato un poliziotto. Sono una ventina i feriti, alcuni però gravissimi. Per le vostre telefonate 800 24 00 24, tra poco comincerò a sentire qualcuno dei vostri stati d'animo, delle vostre sensazioni. E poi c'è per esempio Graziella che scrive, c'è anche la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre per voi, per i vostri messaggi. Dice: un mese fa ero proprio lì in quel luogo, condoglianze e solidarietà a tutte le famiglie coinvolte in questa follia. Poi ci sono altri messaggi anche su altri temi, ma per il momento vorrei sentire tra poco le telefonate all'800 24 00 24, mentre vi ricordo brevemente, se avete acceso non puntualmente alle 21 ma adesso, quali sono i fatti principali. Appunto, l'attacco terroristico a Londra, sono 3 le persone rimaste uccise, 20 feriti, alcuni gravissimi, ucciso l'assalitore che avrebbe agito da solo, però ancora le notizie non sono definitive su questo. Ha falciato i passanti con un SUV, poi armato di coltello ha tentato di entrare in Parlamento. Roma, controlli intensificati in vista delle celebrazioni europee del 25 marzo, abbiamo parlato col presidente del comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Stucchi, attese migliaia di manifestanti per il 25 marzo, manifestanti no euro, e Minniti, il ministro dell'interno, ha convocato il comitato antiterrorismo. Incidente ferroviario oggi, un pendolino di Trenitalia partito da Milano ed deragliato in Svizzera, sarebbero 3 i feriti, ci sono stati molti ritardi. E poi i costi della politica, scoppia di nuovo il caso Vitalizzi, bocciata la proposta dei 5 Stelle, introdotto un contributo di solidarietà per gli ex deputati. E poi la sparata del presidente dell'Eurogruppo in un'intervista a un quotidiano tedesco, Dijsselbloem, dice: gli stati del sud spendono in alcol le donne e poi vogliono gli aiuti. Presa di distanza dall'Unione Europea, Renzi che chiede che vada a casa al più presto, i taxi che confermano lo sciopero di domani dalle 8 alle 22. Per il calcio, dalla stagione 2018-2019 l'Italia avrà 4 posti in Champions League, l'ha ufficializzato l'UEFA. Adesso spazio alle vostre telefonate, ai vostri messaggi. C'è Paolo da Milano. Roberta, buonasera. Buonasera. Anzitutto, Paolo, complimenti per la capacità di andare in verticale anche su argomenti così delicati. Posso esprimere il mio entusiasmo, tra virgolette, per le parole di Vidino e anche di Stucchi per quanto riguarda il lavoro dei servizi di sicurezza e dei servizi segreti italiani. Certo. Perché riuscire ad essere così bravi senza far sì che nessuno ne parli, secondo me bisogna essere veramente molto capaci e molto professionali. No, su questo devo dire ce lo riconoscono un po' in tutta Europa e anche nel mondo, no? di avere un'intelligence dei servizi segreti che funzionano molto bene. Poi però, come diceva Vidino, è chiaro che non si può tenere sotto controllo anche, no, l'imprevedibile. Il famoso lupo solitario, sì, è imprevedibile per definizione, anche se il termine è orribile. Infatti. Però veramente io volevo solo spendere una parola perché tutti gli italiani si ricordassero di questi nostri concittadini che lavorano nell'ombra e che negli anni precedenti, sappiamo, non sempre sono stati, come dire, dei portabandiera della democrazia, però adesso effettivamente, come dire, hanno ripulito il loro nome. Ecco, questo funzionano per il bene comune. Paolo, che lavoro fai, vista questa Io mi occupo di comunicazione aziendale, per cui per quello ho notato questa capacità di essere molto efficienti pur senza che nessuno ne parli. Questo credo che sia un plauso notevole per chi fa quel tipo di lavoro. È giusto, è meritato. Grazie Paolo. Grazie a lei, buon lavoro, complimenti. A te. Grazie, ciao Paolo. C'è Enrico invece da Firenze. Buonasera Enrico. Io ho lavorato 5 anni alle Nazioni Unite, in Messico e in Africa, e volevo dire che sono parzialmente in disaccordo con quanto ha detto Vidino a proposito della imprevedibilità. Io sostengo che l'Italia ha un terreno culturale di convivialità che fa sì che anche grosse realtà che cercano magari di opporsi alla visione occidentale trovano poi comunque un terreno di dialogo. Ecco, questo io penso che vada detto con forza. Il nostro è un paese, senza nulla togliere all'intelligence, allo sforzo che viene fatto dalle forze dell'ordine e quant'altro, che offre un'apertura, nonostante tutto quello che si dice, le difficoltà che abbiamo, e io penso che questo venga risentito dalle persone. Nella serie, se volessimo estremizzare, noi forse una volta tanto in una classifica ci dobbiamo fregiare del fatto di essere fra gli ultimi, nel senso che siamo fra gli ultimi ad essere ostili e essere o almeno percepiti come ostili da chi poi cerca, naturalmente, in una visione che non possiamo condividere, sicuramente sbagliata, di minare le fondamenta di questi paesi. Ecco, diciamo, perché io sono ottimista da questo punto di vista. È vero che non si può prevenire, ma è vero anche che il nostro popolo ha delle capacità di apertura nei confronti anche delle fasce estreme, che peraltro poi si devono appoggiare a una rete di appoggio. E io quindi penso che in Italia ci siano difficoltà per questa rete d'appoggio, perché c'è tanta gente che percepisce i nostri sforzi di accoglienza, al di là di tutto. È un bel quadro quello che hai fatto, Enrico, è in buona parte fondato, anche se purtroppo non è garanzia, perché si diceva così, per esempio, anche della Gran Bretagna, no? Che gli attentatori degli ultimi attentati, quelli sventati, erano di seconda generazione almeno rispetto al flusso migratorio, no? E quindi si pensava integrati, o vediamo anche quello che succede in Francia. Però insomma, per ora diciamo che probabilmente tra la bravura dei nostri servizi segreti e anche il fatto che il nostro paese, come dici tu, è più accogliente, in parte più capace di integrare, anche se adesso insomma subiamo un po' troppo questa pressione del flusso migratorio, sicuramente hanno per ora salvaguardato il nostro paese, speriamo insomma che lo possa rimanere a lungo. Enrico, ti ringrazio. Una cosa, e questo si percepisce moltissimo nella nostra cooperazione all'estero. Io penso che i nostri cooperanti, io ne ho conosciuti decine, hanno tutti, senza nessuno escluso, una capacità di essere apprezzati, cooperanti dal cooperante nel servizio civile al nostro militare che si impegna in missioni di pace, sottolineo di pace. Penso che questo sia anche una bellissima finestra nei confronti di questi popoli per essere percepiti come degli amici. Poi qualcuno ci può percepire in modo diverso, ma ci sono grandi fasce della popolazione di questi paesi che ci percepiscono bene. Penso che tu lo dica con cognizione di causa, visto che hai detto che hai lavorato per le Nazioni Unite. Grazie Enrico, saluti a Firenze. Prego. Ciao Enrico. Grazie, ciao. Grazie. Invece adesso a Roma c'è Virginia. Ciao Roberta. Ciao Virginia. Io faccio un lavoro insomma un pochino pesante, perché mi occupo di bambini che subiscono violenze. Ti occupi, scusa Virginia, ti sento male, ti occupi di bambini? ci subiscono violenze. Ah. E quindi quando torno a casa la sera e accendo subito la radio per sentirti, volevo dire che anche nei momenti più difficili che abbiamo avuto, tu le notizie le dai sempre con quel senso lieve, per cui è un piacere ascoltarti. Grazie, Virgile, faccio quello che posso. Mi hai fatto un regalo, 2 ore di trasmissione tua, fallo più spesso, ti prego. Vabbè, vedrò di fare il possibile. Virgile, ti ringrazio molto, allora conto sul tuo ascolto, so che fino alle 23 sei lì, benissimo. Sì, infatti. Ciao Roberta, grazie. Buon lavoro. Grazie Virginia, ciao. E c'è Antonella invece da Milano? Sì, ciao. Ciao Antonella. Ciao. Niente, vabbè, purtroppo io oggi mi trovavo a casa quando ho preso la notizia, tra l'altro a casa di una mia vicina che ha la figlia che abita a Londra. E stavamo scherzando e vedere così la trasmissione bloccata con l'annuncio appunto di questo attentato, chiamiamolo così. E ha rimosso di nuovo le paure che ci sono venute sotto Natale con i mercatini. Cioè le ha smosse di nuovo, te la fate tornare? È una roba che è terribile. Poi soprattutto adesso che ho anche la bambina che mi ha chiesto l'altro giorno: mamma, sabato andiamo a Milano, poi adesso con questa questione che sta arrivando pure il Papa, niente, rimette di nuovo la paura, quindi la tua libertà, il fatto che non hai paura di nuovo uscire di casa, riprende l'incubo ancora della metropolitana, è un continuo non riuscire più a essere serena di camminare tranquillamente. E quando penso anche alle persone che subiscono, non lo so, è un continuo veramente a gioire e poi invece nuovamente a ritornare nell'incubo della paura. Hai ragione Antonella, è comprensibile anche se si continua a dire che bisogna reagire, che non bisogna sottostare a questo ricatto, no, del terrore, della paura. Perché quello che vogliono, l'obiettivo loro è proprio quello, io sono convinta di farci paura, di spaventarci, quindi quello sono sicura, però reagire anche hai paura, soprattutto quando hai dei figli. Però è vero che sento questo tuo stato d'animo in tante persone vicino a me che conosco, conoscenti, che appunto passano da momenti di serenità perché per un po' non succede niente, non se ne parla e poi ripiombano in questa paura. Spero che sia breve questa tua sensazione. Io lo auguro a tutti veramente che troviamo finalmente un po' di pace, perché veramente ne succedono tantissime, troppe le violenze, perché è proprio la violenza che viene minata. La violenza anche nel bullismo, la violenza nel... Hai ragione, siamo immersi purtroppo. Sì, purtroppo non è mai pace. Grazie Antonella, mi raccomando. Grazie a te. Ciao Antonella. Per il programma. Buona vita, buona vita a te. Grazie, ciao Antonella. Anche a te, altrettanto, ciao. Allora, adesso direi di sentire per chi sta viaggiando quali sono gli aggiornamenti e poi ritorniamo a brevissimo insieme. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme e insieme questa sera eccezionalmente, ve lo ricordo, se accendete la radio in diversi momenti, siamo insieme fino alle 23, non fino alle 22 come sempre, effetto notte dalle 21 alle 22, ma sino alle 23 perché continuerò a aggiornarvi su quello che succede a Londra, perché di questo attentato che c'è stato vicino al Parlamento, con per ora 3 morti, il quarto è l'assalitore che è stato ucciso dalla polizia e una ventina di feriti, tra i quali molti anche gravissimi. Sembrerebbe che non ci siano italiani né tra le vittime ma neanche tra i feriti. Non è ancora chiaro se l'assalitore, che prima sarebbe passato con un SUV per ha investito diversi passanti e poi è sceso dalla macchina con un coltello per cercare e ha coltellato un poliziotto, non si capisce se era una persona sola, un solo assalitore, i testimoni parlano di un quarantenne dai tratti asiatici, oppure due, ancora questa cosa non è chiara. Per l'appunto continueremo a vedere se ci sono delle novità. Vi ricordo adesso quali sono le notizie principali e poi passiamo a un altro tema che ci riguarda purtroppo da vicino, che riguarda l'Europa e una certa mentalità durissima a morire. Attacco terroristico a Londra, le persone rimaste uccise sono 3, 20 feriti, alcuni molto gravi, ucciso l'assalitore che avrebbe agito da solo, ma non è sicuro, falciando i passanti con un SUV e poi armato di coltello ha tentato di entrare in Parlamento. A Roma, anche in virtù di quanto successo, i controlli intensificati in vista delle celebrazioni del 25 marzo, Minniti, il ministro dell'Interno, ha convocato il comitato antiterrorismo per domani. Abbiamo sentito anche la testimonianza del presidente del COPASI, del comitato parlamentare militare per la sicurezza della Repubblica. Qui effetto note poco fa. I costi della politica, scoppia il nuovo caso Vitalizzi, bocciata la proposta dei 5 Stelle e introdotto un contributo di solidarietà per gli ex deputati. E poi la sparata del presidente dell'Eurogruppo, di cui parleremo tra pochissimo. I taxi che confermano, vi ricordo, per domani lo sciopero dalle 8 alle 22, perché dicono sì, il governo sta cercando di mediare, ma non ci sono le garanzie per dare tranquillità alla categoria. E poi calcio, dalla stagione 2018-2019 l'Italia avrà 4 posti in Champions League, l'ufficialità arriva dalla UEFA. But you apologize for saying that, or implicitly saying that the South has spent the money on women and alcohol in the last years. Would you apologize for this? No, certainly not. And that's not what I said. By the way, what I made very explicit is that solidarity comes with strong commitment and responsibility. And you don't have to read my statement because I know my statement. It came from this mouth. Insomma, niente, non ritira quello che ha detto il presidente dell'Eurogruppo, l'olandese Dijsselbloem. Avete sentito l'intervistatore che dice lei si scusa per quello che ha detto, che ha creato un'indignazione generale, l'Unione Europea nel complesso che ha preso le distanze. Renzi già stamattina aveva twittato che è il caso che se ne vada a casa il prima possibile. Perché che cosa ha detto il progressista socialista olandese Dijsselbloem, presidente dell'Eurogruppo? Ha detto: gli stati del sud spendono tutti i loro soldi in alcol e donne e poi pretendono che li aiutiamo. Allora, sicuramente l'indignazione generale è stata da parte degli stati del sud, perché ha detto: quale solidarietà nell'Unione, quale amicizia, quali rapporti ci sono per subire una simile offesa. Ma devo dire che però la gran parte di coloro che si sono indignati non hanno sottolineato che a essere offese ancora una volta sono le donne, perché se è stata chiusa nei giorni scorsi la trasmissione di Paola Perego, sapete, per quella lista delle doti delle ragazze dell'est che sono sottomesse, ottime casalinghe, perdonano i tradimenti, eccetera, eccetera, lì almeno erano degli esseri umani di serie B, le donne in questo caso sono addirittura degradate a merce, perché dice Dijsselbloem, gli uomini praticamente, i paesi del sud intende evidentemente, sono abitati solo da uomini che spendono per acquistare vizi come l'alcol e le donne, insomma, quindi le donne degradate a merce. Ma vorrei sapere cosa ne pensa di questo il nostro Gianluca Nicoletti. Ciao Gianluca. Ciao cara, ciao. Che ritrovate ogni giorno a Meloga alle 12:10. Che riflessioni hai fatto su questo ennesimo sparata? La impressione è che oggi, una volta che era scandalo, erano le idee originali, le idee transessive, le idee rivoluzionarie. Oggi sono i luoghi comuni, chi macina il luogo comune più trito, il pensiero più bieco, più consumato dall'abuso che ne è stato fatto dalla pancia di migliaia e migliaia di persone, ottiene l'onore delle cronache. Sì, quello che ha detto esattamente speculare rispetto al motivo per cui poi è stata defenestrata la Perego. È un luogo comune che l'uomo del sud, cos'è? Il luogo comune è un beone, non ha il senso del denaro e poi paga le donne, cioè quindi è un puttaniere. Questa, diciamo, è la conclusione ultima, come era una conclusione molto, molto affrettata, azzardata e soprattutto discriminatoria, quello dice: tutte le donne dell'est sono delle maliarde, pronte a compiacere gli uomini pur di ottenere il risultato di tenerseli vicino. Ecco, lo trovo abbastanza desolante il fatto che questa cosa faccia clamore, e soprattutto desolante il fatto che non credo che siano delle uscite, soprattutto se fatte da uomini politici importanti, con dei ruoli importanti nel loro paese. L'Olanda, poi lui si occupa di economia, l'Olanda mi sembra che è un paese che in quanto a prostituzione rappresenti una fetta importante anche della loro economia, quindi non so di cosa si lamenti, evidentemente. Ottiene più risultato di visibilità. Noi ci indigniamo, ci rimaniamo male, ci sembra assurdo che questo sia oggetto di notizie. Diciamo, cosa va dicendo questo? Lo lasci dire a chi non ha cultura, a chi non ha un'articolazione di pensiero, ma dicendolo secondo me si crea consenso. Ci sono tante persone, mentre noi siamo qui perplessi, diranno: ma sì, è vero, guarda un po', stanno tutti lì con la canottiera, con le ascelle di fuori, con il fiasco del vino in mano, pronti a toccare e sedere le donne che passano. Quindi evidentemente oggi noi siamo in un momento tale di generazione, di civiltà, che combattere questo tipo di esaltazione del luogo comune è molto difficile, perché il luogo comune affratella le persone, verso il minimo comune denominatore le persone si sentono tutte non messe in crisi, mette in crisi soltanto l'idea trasgressiva, l'idea originale, l'idea banale fa sentire tutti uguali e quindi tutti contenti. E comunque Gianluca, il soggetto per antonomasia è sempre il maschio, perché quando ha detto gli stati del sud spendono in donne alcol, non penso che intendesse che anche le donne spendono in donne alcol, per quanto insomma se le donne non avessero voce in capitolo nei vari PIL nazionali, che vuol dire? No, lui perché ancora pensa che le donne siano a casa, gli uomini vanno in giro a spendere i sudati risparmi in donne di piacere, di malaffare, o magari vadano in case chiuse come ci sono in Olanda e non ci sono poi in realtà in tutti i paesi del sud, in molti paesi del sud, quindi è un'idea ancora più bieca e ancora più paradossale. Diciamo che almeno la Perego non si è data aria da statista, lui dovrebbe essere uno statista, insomma speriamo che... Ma lo statista capisce che se vuole guadagnarsi i titoli sui giornali deve dire banalità, deve dire quello che direbbe un abbinazzato in osteria e quindi viene ascoltato. E quindi ci vuole poco cervello per questo. Grazie Gianluca Nicoletti, a domani a Melog alle 12:10. Vedo molti vostri messaggi anche sulla sparata di Dijsselbloem, tra poco li leggerò sia sulla pagina Effetto Notte, la pagina Facebook, sia al 349-238-66 e poi le telefonate all'800 24 0024. A dopo, eh? Dopo. Sono le 22. GR 24, il sole 24 ore. E a questo punto della giornata questi fatti principali: attacco terroristico a Londra, 3 le persone rimaste uccise, 20 feriti, alcuni gravissimi, ucciso l'assalitore che avrebbe agito forse da solo ma ancora non è sicuro, falciando i passanti con un SUV e poi armato di coltello aveva tentato di entrare in Parlamento. Non è ancora chiaro se sia stata ferita o meno lievemente una giovane bolognese. E poi Roma, controlli intensificati in vista delle celebrazioni europee del 25 marzo, attesi migliaia di manifestanti no euro, Minniti, il ministro dell'interno, convoca per domani il Comitato antiterrorismo. Incidente ferroviario, un pendolino di Trenitalia partito da Milano e deragliato in Svizzera, 3 feriti e forti ritardi. I costi della politica, scoppia il nuovo caso dei vitalizi, è stata bocciata la proposta dei 5 Stelle, approvata quella del PD e quindi introdotto un contributo di solidarietà per gli ex deputati. Siria, truppe speciali americane arrivate vicino a Raqqa, la capitale dell'ISIS nel paese. La sparata del presidente dell'Eurogruppo, in un'intervista a un quotidiano tedesco, Dijsselbloem dice: gli stati del sud spendono in alcol le donne, poi vogliono gli aiuti. Presa di distanza dall'Unione Europea, Renzi chiede che vada a casa al più presto. Taxi, confermato lo sciopero di domani dalle 8 alle 22. Spiegano i tassisti, non ci sono le garanzie per dare tranquillità alla categoria. E per il calcio, l'UEFA ufficializza dalla stagione 2018-2019 l'Italia avrà 4 posti in Champions League. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Di solito si chiude Effetto Notte alle 22 tutte le sere, dal lunedì al venerdì, ma questa sera puntata speciale perché appunto c'è stato questo attacco terroristico a Londra e quindi mi collegherò di tanto in tanto con analisti, esperti e anche con Londra, con i nostri corrispondenti per sapere se ci sono degli aggiornamenti, anche perché ci sono ancora delle notizie che non sono diciamo definitive, come per esempio poi sentiremo la nostra corrispondente da Londra, questo ferimento lieve di una giovane bolognese che prima è stato annunciato, poi è stato smentito, poi di nuovo adesso vedo un'agenzia su questo e poi anche non è chiaro se questo attentatore, che poi è stato ucciso dalla polizia e che ha causato 3 morti e il ferimento di almeno una ventina di persone, di cui alcune gravissime, abbia agito da solo oppure no. Per i vostri interventi questa sera quindi c'è anche il numero verde 800 24 0024 per telefonare, se no sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione, oppure il numero per messaggio ed sms che è 349 238 6666. Tra l'altro, a proposito delle notizie, abbiamo parlato e poi parleremo anche dei vitalizi, di cosa è stato approvato oggi, poi anche di quello che ha detto che ha provocato indignazione generale il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem con Manuela, per esempio, che scrive: secondo me ha visto il programma della Perego sabato e ne ha fatto delle conclusioni peraltro sbagliate, perché da noi è molto diversa la situazione. Da noi gli uomini non picchiano le donne fra le mura domestiche, le uccidono in autostrada, gli danno fuoco se si azzardano ad abbandonarli, oppure gli sparano davanti ai figli. Noi siamo un paese avanzato. Ecco, qualcuno fa giustamente della amara ironia. Dijsselbloem, per chi avesse acceso in questo momento, vi ricordo, ha detto in un'intervista a un autorevole quotidiano tedesco: gli paesi del sud spendono in alcol e donne degradate, poi le donne appunto anche a livello di merce, fra le altre cose soprattutto. Ma prima vorrei sentire ancora delle vostre telefonate che stanno arrivando. Antonio da Frosinone, ciao Antonio. Buonasera. Buonasera. Allora, io volevo dire che secondo me c'erano tutti questi casini in giro perché per la globalizzazione. La globalizzazione? Sì, dice. Perché allora io da ragazzo ho anche manifestato, adesso ho 47 anni, quando avevo 20-25 anni sono sempre stato un no global, ma no perché ero esaltato, perché secondo me facendo tutta questa globalizzazione abbiamo perso nei vari paesi, anche soprattutto dell'Europa, la nostra sicurezza nazionale. Quindi in poche parole, cioè, abbiamo perso credibilità a livello nazionale, nel senso che ci sono un sacco di gente infiltrata che non riusciamo a controllare, quindi succedono tutti questi casini. Antonio, anche se sai, come la fermi la globalizzazione? È stato un processo inarrestabile, gestita diversamente. Sì, ma... andava gestita, perché secondo me purtroppo la globalizzazione l'hanno avuto i potenti, tra virgolette, quelli che hanno i soldi, perché purtroppo il mondo funziona così. Funziona e sta in mano a quello che hanno il potere. Loro, facendo la globalizzazione, hanno guadagnato, facciamo conto, 1.000 lire, hanno guadagnato 1.000 volte danno. E che purtroppo, secondo me, torno a ripetere, la globalizzazione, perché abbiamo perso soprattutto in sicurezza, perché ci sono un sacco di gente, infatti, che entra nei paesi, in Francia, in Italia, in tutta Europa, che non è segnalata, non si sa quello che fa. Anche nel mio piccolo paese qua a Frosinone ci sta parecchia gente che non è segnalata. No, lo so. Quindi, diciamo, Antonio, che il mondo diventa sempre più complesso, ci sono dei processi che è difficile frenare o perlomeno gestire, e certo si ha nostalgia molte anche di quello che era un paese, diciamo, più semplice, più alla buona, per esempio l'Italia che è emersa poi dopo la guerra dal boom economico, eccetera. Però mi sembra che purtroppo ci sarebbe stato bisogno di classi dirigenti e politiche diverse. E poi un'altra cosa che a me sinceramente mi fa ridere, nel senso anche della religione dei musulmani, no? Noi qua abbiamo, giustamente, ognuno ha la religione, per carità, ognuno professa quello che vuole, però qua noi le moschee le facciamo mettere tranquillamente, ma invece dalla parte dove stanno questi famosi musulmani, che loro, se gente brava, che secondo me il 50% sono bravi, ma il 50% no. Cioè, se noi andiamo con una croce là, ci fanno soltanto. Lo so, questo è il problema. Vecchio discorso. E noi riteniamo di essere più avanzati. Voi ci avete ragione, sì, ma avanzato quello che vi pare a voi. Però ma purtroppo si torna sempre al vecchio discorso, perché purtroppo funziona così. Ma a me mi dà molto fastidio questa cosa. Cioè, arriva un bingo pallino, prendo la macchina e ficca sotto la gente. Cioè, ma non esiste proprio. Cioè, mi sembra talmente assurdo. Cioè, quando uno non è più difeso. Cioè, non lo so, uno si deve tornare veramente ai tempi del West, con ognuno si deve difendere per i fatti suoi. Cioè, con questo stiamo arrivando veramente. Allora, Antonio, diciamo avanti. Sicuramente la globalizzazione ha portato degli svantaggi, dei mali, eccetera. Se vogliamo proprio tirare un filo rosso, c'è una violenza insita negli esseri umani, in particolare negli uomini, altrimenti anche in Italia, per esempio, non si avrebbero dei femminicidi ogni 2-3 giorni. Diciamo che la questione è più complessa che non detta così, insomma, in poche parole. Grazie comunque, Antonio. Roberto da Cuneo. Buonasera, buonasera. Grazie per l'opportunità. Mi riferivo alla signora di prima che diceva di aver paura di uscire Antonella, di casa per l'effetto di quello che è successo a Londra. Ora, chiaramente non voglio minimizzare, però dovremmo relativizzare queste cose. Noi abbiamo in Italia, mi sembra, 3.000 morti all'anno sulle strade. Mm. Ora, non c'è nessuno di noi che esce di casa terrorizzato nel prendere la macchina, eppure 3.000 persone all'anno non torneranno a casa, più tutti feriti. Se mettiamo dei controlli di velocità ci scandalizziamo, perché, caspita, vogliono fare cassa. ma sono 3.000 morti. Sì, no, capisco, no, capisco Roberto, questo può essere un modo per confortare Antonella e spingerla insomma a vivere la sua vita, speriamo sì. che lo faccia, però è anche vero che l'idea che qualcuno ti possa fare del male rispetto a che tu possa incorrere in un incidente, in un accidente, in qualcosa che ti succede così imprevedibilmente senza che qualcuno ti voglia fare volutamente del male, è un po' diversa la sensazione psicologica, diciamo, Roberto. Comunque ti ringrazio, dimmi. Grazie, speriamo che serva questo ad Antonella. In ogni caso, insomma, è chiaro che ogni volta che succedono queste cose, di nuovo questa cappa ci si butta addosso, ci schiaccia un po', e poi però bisogna riprendere a vivere in modo più gioioso e insomma più intenso la propria vita, ognuno come può. Adesso invece ci dovremo collegare tra pochissimo con Giorgia Scaturro, che è in collegamento, la nostra Giorgia Scaturro da Londra. Ciao Giorgia. Buonasera. Ebbene, vi porto delle prime conferme, perché proprio 5 minuti fa il primo ministro Theresa May è uscita dal vertice del comitato di crisi Cobra con i servizi di sicurezza e ha fatto il primo discorso alla nazione dopo l'attentato. Ebbene, la May ha chiamato il gesto come malato e depravato, confermando che a Conscio è stato un solo attentatore che avrebbe ucciso due persone sul ponte di Westminster e un poliziotto accoltellato sul cancello del Parlamento. Quindi è confermato Giorgia che era da solo, perché ancora era un po' ambigua questa informazione, non si sapeva se uno era sul SUV, l'altro invece a piedi, no, invece è l'unico, uno solo che ha fatto tutte e due le cose. Conte ufficiale, il primo ministro Theresa May, ripeto, a seguito dell'incontro del vertice con i servizi di sicurezza, l'attentatore sarebbe uno soltanto. Si aspetta in un paio di ore il discorso del commissario Mark Rowley di Scotland Yard, che darà maggiori informazioni sulla dinamica dell'attentato. Intanto però sempre dai media britannici arrivano conferme anche sulla identità dell'attentatore, in particolare sulla non identità, perché così come era stato riportato, Abu Izzadin, il pericoloso estremista, era stato identificato come il sospetto terrorista che poi è morto, ucciso nell'attentato. Ebbene, secondo l'emittente Channel 4, il fratello dell'uomo l'avrebbe contattati per segnalare che quest'uomo, che sì è comunque un estremista, resta in carcere da almeno 2 anni, e quindi non si tratterebbe di Trevor Brooks, chiamato anche Abu Izzadin, da quando è stato radicalizzato all'età di 17 anni, e quindi si attende di capire chi in realtà è questo attentatore che è rimasto ucciso nell'attentato. Quindi Giorgia non è quello che era stato identificato come il terrorista, perché il fratello, hai detto, ha chiamato gli inquirenti dicendo guardate che mio fratello è in galera, e quindi ancora non ha un'identità quest'uomo che è stato ucciso dalla polizia, l'assalitore. Questo, ripeto, la fonte è l'emittente Channel 4, quindi si attende fra poche ore che il commissario di Scotland Yard, Mark Rowley, confermi effettivamente se quest'uomo sia in carcere o altro. Sui social media, anche su Twitter, c'erano stati interventi dell'avvocato di Abu Izzadin, che avrebbe confermato la stessa cosa segnalata dal fratello, ovvero che l'uomo sarebbe in carcere al momento. Però attendiamo fra un paio di ore che cosa dirà Scotland Yard per avere delle notizie certe. Giorgia, poi ci colleghiamo ancora con te lì a Londra, ma senti, poi l'altra notizia che è ancora da chiarire, ho visto delle agenzie contrastanti sull'eventuale ferimento lieve di una giovane bolognese, cosa ti risulta? Perché ci sono agenzie che dicono di sì e agenzie che dicono che non c'è nessun ferito italiano. Questo resta ancora da confermare. Inizialmente anche l'ambasciata avrebbe negato il coinvolgimento di italiani nell'attentato, anche secondo i media, quindi anche su questo bisogna attendere delle notizie definitive. Io non mi sento di al momento confermare o negare questa presenza di un italiano tra le vittime dell'attentato. Grazie Giorgia Scaturro, a dopo allora. A dopo. Ciao Giorgia. Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna. Sentite, le proteste del Movimento 5 Stelle oggi alla Camera, questa bagarre sui vitalizi dei parlamentari, con irruzione proprio dei deputati grillini nella sede dell'ufficio di presidenza, che ha reintrodotto il contributo di solidarietà sulle pensioni erogate a deputati e senatori. Adesso ci facciamo spiegare esattamente che cosa è successo oggi, sia per quanto riguarda le proteste, sia per quello che è passato, che è stato approvato, dalla nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore. Buonasera Manuela. Buonasera Roberta, buonasera a tutti. Quindi nel concreto che cosa è successo oggi? Nel concreto è successo che all'ufficio di presidenza della Camera è stata bocciata la proposta di delibera presentata dal Movimento 5 Stelle, che prevedeva l'equiparazione delle pensioni dei parlamentari a quelle dei cittadini. Proprio detto in estrema sintesi, ma a sorpresa è stata approvata una proposta presentata dal PD che invece prevede un contributo di solidarietà sui vitalizi degli ex parlamentari. Cioè cosa succede? Gli ex parlamentari devono dare dalle loro consistenti pensioni dei contributi? Esatto, che vanno dal 10% per i vitalizi più bassi, parliamo di quelli che vanno dai 70.000 agli 80.000 euro per capire l'ordine di grandezza, a un contributo del 40% per quelli superiori ai 100.000 euro annui. Quindi per capire, Manuela, loro continueranno a prendere i parlamentari vitalizi, ma quelli che hanno certe cifre, che percepiscono certe cifre, dovranno dare un contributo di solidarietà. In sintesi è questo, continua il vitalizio ma con questa... I vitalizi sono stati già riformati, quindi tecnicamente in realtà non esistono più, però gli ex deputati che sono titolari di queste pensioni rimaste molto elevate in virtù dei vecchi criteri che oggi sono stati modificati, si vedranno prelevare questo contributo di solidarietà per un periodo limitato a 3 anni. Quello che invece chiedevano i 5 Stelle era quello di modificare le pensioni dei parlamentari che matureranno la pensione, quindi degli attuali parlamentari, in modo tale da equipararle a quelle dei cittadini. Da qui la protesta dei 5 Stelle, lo slogan "si tengono il privilegio", ma anche forse lo spiazzamento rispetto a una misura che non si aspettavano. Rispetto cioè alla reazione del PD. Il dato politico è che stiamo assistendo a un inseguimento reciproco su un tema che è un tema classico delle forze anticasta, diciamo così, delle forze populiste, che però oggi è diventato, come dire, è diventato un tema anche del partito di maggioranza, ed è la delibera del PD è stata votata da tutti i partiti con i 5 Stelle che hanno abbandonato la sala. Perché c'era appunto anche la loro proposta che è stata rigettata e con la quale, hai detto in sintesi, volevano equiparare le pensioni e i contributi quindi dei parlamentari a quelli dei normali cittadini, cosa che non esatto, è passata invece. Esatto, volevano fare esattamente questo perché, se ho un pochino di tempo magari cerchiamo di spiegare anche quello, perché attualmente con 5 anni di contributi il parlamentare matura il diritto alla pensione a 65 anni, mentre tutti gli altri lavoratori lo maturano a 70. A un lavoratore normale si applica un tetto massimo imponibile per cui il reddito oltre 100.000 euro non contribuisce ad accumulare la pensione, che è una regola che invece non vale per i parlamentari, e il coefficiente di trasformazione viene rivisto al ribasso ogni 3 anni per riflettere l'aumento della vita media attesa, ma invece il Parlamento ignora la revisione e quindi fa maturare assegni pensionistici che sono più alti rispetto a quelli degli altri. La proposta dei 5 Stelle aveva però un baco, e cioè quella di costringere la Camera a dialogare con l'INPS, perché avrebbe dovuto in qualche modo fare un'operazione di ricongiungimento delle carriere precedenti dei parlamentari per uniformare tutto il calcolo pensionistico. Per fare questo, cioè per far dialogare l'INPS e gli altri fondi pensione, secondo i questori della Camera servirebbe una legge. E quindi non bastava la delibera dell'ufficio di presidenza. Sarebbe stato complesso, insomma, questa cosa. Sarebbe servita proprio una legge, quindi con tutto il procedimento legislativo tipico, e non sarebbe bastata una delibera dell'ufficio di presidenza. Un ascoltatore scrive: vitalizi, ecco perché il Movimento 5 Stelle aumenta. è un tema, quello dei privilegi dei parlamentari e in generale della casta, che sicuramente ha contribuito a costruire la fortuna del movimento. Da anni dibattuta questa cosa, da anni provocato indignazione, soprattutto con la crisi economica, no? Vedere questi divari. Grazie Manuela Perrone, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Manuela. Ciao Roberta. Ora invece ci occupiamo di un'altra notizia di oggi, di questo Eurocity Milano-Basilea, quindi un treno di Trenitalia da Milano è partito diretto in Svizzera, che è deragliato a Lucerna con diversi feriti, portava 160 passeggeri. Ci colleghiamo allora proprio con Lucerna in Svizzera, c'è il nostro Lino Terlizzi. Ciao Lino. Buonasera a voi. Ci racconti un po' la dinamica e poi se effettivamente i feriti sono tre o di più? Pare che siano sette ora, questo è sette persone, le ferite fortunatamente pare che non siano gravi. È successo che questo treno Eurocity Milano-Basilea con 160 persone a bordo nel complesso ha deragliato nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, all'uscita della stazione di Lucerna, che rimarrà chiusa al traffico, lo sarà probabilmente ancora sino a domani mattina se non ci sono altre complicazioni. Uno dei vagoni di Eurocity, il treno ETR appunto di Trenitalia, ha deragliato, si è inclinato sino al punto anche di colpire un palo di contatto cosiddetto, quindi è andata via tutta la corrente nell'intera stazione, quindi traffico ferroviario bloccato in tutta l'area di Lucerna, con effetti ovviamente non solo nella regione ma anche nell'intera Svizzera. E poi bisogna ricordare che ovviamente lo snodo ferroviario di Lucerna è importante in parte anche a livello internazionale. Feriti appunto al momento pare che siano sette, non siano gravi. Trenitalia ha mandato i suoi specialisti qui a Lucerna insieme a quelli del costruttore del treno per vedere qual è la dinamica, insieme alla polizia elvetica e alle ferrovie federali svizzere. Per la verità sino a questo momento non si sa ancora quale sia la causa poi tecnica finale di questo incidente, che ovviamente nella molto ferroviaria svizzera, qui si ama molto la ferrovia, la si utilizza molto, ha un po' sconvolto il panorama oggi, perché i disagi fortunatamente non ci sono stati dal punto di vista delle vittime, delle persone, dei passeggeri, delle conseguenze gravi, però è chiaro che fa discutere, ha suscitato sorprese. Io sono tornato poco fa dalla stazione di Lucerna e fa specie vederla chiusa, no? Perché è una stazione. Sono abituati all'efficienza svizzera, per l'appunto, no? Svizzeri. Sì, insomma, quindi. Quindi adesso non ci sono state sin qui polemiche, per la verità, no? Perché il treno italiano e così via. Però devo dire, non ci sono state sin qui, spero anche che non ci siano poi. Nei prossimi giorni. Trenitalia tra l'altro ha precisato, ma evidentemente è una precisazione tecnica, che c'era un macchinista svizzero e che il personale di scorta pure era svizzero. Adesso per ora, ripeto, si ferma a queste constatazioni e non ci sono polemiche. Resta il fatto oggettivo che fortunatamente senza morti, senza vittime gravemente lesionate, diciamo, ci sono queste sette persone pare al momento, fortunatamente è andata così, però è chiaro che per il traffico è stata una botta. Adesso speriamo che domani torni alla normalità. Grazie Lino Terlizzi dalla Svizzera, grazie di questi aggiornamenti, poi capiremo nei prossimi giorni qual è stata effettivamente la dinamica. Ringrazio Maria Laura per il suo messaggio e poi tanti altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco ancora spazio alle vostre telefonate. E per esempio sulla sempre la frase infelicissima e offensiva, soprattutto ancora prima per le donne che non per gli stati del sud in generale, ci sono diversi messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Francesco dice: chi si vede da Essenblum quello dei prelievi forzosi per associazione di idee, ogni volta che sento il suo disarmonico nome controllo se ho ancora il portafogli, dice. Non mi sarei aspettato da lui nulla di diverso. Cristiano dice: Roberta, c'è un lampante sottobosco nazista in tantissime coscienze, poi un'equazione inferiore, superiore, impeccabile, scadente, infimo, illustre, sporco, pulito, che le paure poi tradiscono senza maschera. Andrea scrive: parlando della stabilità, ha detto all'intervistatore: se io spendo tutti i miei soldi in donne e alcol, non posso poi chiedere in prestito dei soldi. Lo ha spiegato bene Oscar Giannino. Sì, ho capito, ma non è una bella frase, sarà pure una metafora, però lasci stare le le donne e parli di altre cose che si possono comprare, non soltanto che comprano gli uomini ma anche le donne. Guido, non entro nel merito, mi sembra solo una frase superficiale, ogni polemica le troverei inutile. Beh, diciamo che non è appunto un conduttore di una qualsiasi trasmissione, né tantomeno uno che ha parlato al bar, dovrebbe essere uno statista europeo, è il presidente dell'Eurogruppo, quindi un altissimo vertice nell'ambito delle istituzioni europee. Comunque adesso diamo spazio alla pubblicità, poi continuate con i vostri commenti, con le vostre interazioni. Tra poco c'è Filippo da Savona all'800240024 e poi avremo altri temi e ci collegheremo ancora con Londra per gli ultimi aggiornamenti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in 120 minuti in realtà, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi in questa edizione, puntata speciale di Effetto Notte, perché anziché chiudere i battenti alle 22 siamo insieme sino alle 23, così c'è modo di collegarci ogni tanto con Londra e sapere quali sono gli ultimi aggiornamenti. Intanto dall'ultimo collegamento che abbiamo fatto, per esempio con Giorgia Scaturro, abbiamo avuto delle notizie definitive, delle conferme in parte, in altre invece semplicemente degli sviluppi. Allora, sempre naturalmente riguardo all'attacco a Londra oggi, che è costato la vita a 3 persone, è stato ucciso l'assalitore che con un SUV ha cercato di mettere sotto più persone che poteva e poi è sceso con un coltello cercando anche di fare strage con questo coltello. Per ora appunto il bilancio è purtroppo provvisorio, perché tra i 20 feriti ce ne sono alcuni gravissimi, ci dicevano da Londra. E poi iniziale identificazione di questo attentatore invece sarebbe risultata sbagliata, perché stando a Channel 4, a questa televisione, il fratello di quello che era stato identificato come l'attentatore ha chiamato gli inquirenti dicendo: no, guardate che mio fratello in realtà è in carcere, non è possibile che sia stato lui. Quindi ancora da capire qual è l'identità dell'assalitore. Dopodiché risulterebbe che non ci siano feriti italiani, perché vi dicevo di questo balletto di informazioni di agenzie che arrivavano, che dicevano di una bolognese leggermente ferita, una giovane bolognese, poi invece sembrerebbe per fortuna di no. Poi sentiremo ancora, tra poco ci collegheremo ancora. Nel frattempo ci sono anche altri temi, abbiamo parlato dei vitalizi, di cosa è stato approvato oggi, e intanto le vostre telefonate, le vostre interazioni continuano sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al numero verde. Per esempio c'è Filippo da Savona. Filippo, buonasera a te. Dunque, io la prima cosa che sottolineo, non so se mi ha colpito, è da quello che avete detto, la calma con cui sembra che là a Londra i mezzi di informazione abbiano agito, anche i politici, non gridare dalli all'immigrato. Cioè, c'è stato un attentato, vediamo effettivamente cosa sarà. Cioè, da quello che ho sentito da voi, c'è calma. Ragionare un attimo a bocce ferme. Beh, calma Filippo, noi, semplicemente no, calma nel senso per carità, c'è allerta, ma da noi magari saremmo molto più focosi, molto più, non voglio dire scandalistici, no, vuoi dire che sono sempre britannici. Comunque ecco, la prima ministra sì, Theresa May, ecco quello volevo dire in quel senso. Non ho forse una grande capacità articolativa del mio pensiero, però quello mi ha colpito. E poi però anche un'altra cosa che mi colpisce spesso quando succedono queste cose in Europa, che se succedono da noi ci colpiscono a volte con tanta retorica, purtroppo succedono cose anche più gravi e anche organizzate in modo paramilitare, quindi secondo me anche più gravi, oltre che dal numero, anche da un punto di vista culturale, nel resto del mondo. Eppure abbiamo le notizie di sfuggita. Quando sono vicino a noi, sì, avrebbe potuto capitare a Roma, a Torino, a Milano, a Bologna, a Cuneo, forse questo ci colpisce. Però, come diceva uno ascoltatore mezz'oretta fa, che ogni anno muoiono 3.000 persone, e lei ha detto, no, diceva, non però quelle 3.000 persone non decidono di morire. Cioè, no, no, Filippo, caso, no, diceva 3.000 persone muoiono sulle strade per incidenti stradali. È una cosa un pochino diversa che essere uccisi da qualcuno volontariamente. No? È vero che è diversa, però molti quando si mettono alla guida decidono di mettersi alla guida non un po' più in forma. E io quando però esco Filippo, con la mia macchina, scusami, mi a sembra volte ho paura, chi mi trovo? Mi trovo il drogato, quello che ha bevuto. Sì, e Filippo, però scusa, volte, mi sembra un ragionamento un pochino, scusami, senza offesa, arzigogolato, nel senso che adesso stiamo parlando di atti terroristici, di da una parte lupi solitari, anche se li dovremmo chiamare dementi solitari, diciamo, per non dargli troppo prestigio, e dall'altra di praticamente di eserciti, paraeserciti molto strutturati, no? Di integralisti islamici, abbiamo visto Al-Qaeda, adesso vediamo l'ISIS, insomma non credo che siano cose paragonabili al mettersi in macchina e aver paura di un incidente. Su questo l'imprevedibilità della vita è in ogni istante, ci può cadere anche una tegola sulla testa, ma insomma non farei questi paragoni, sennò usciamo troppo dal discorso. Adesso ci sarebbe Nicola da Padova. Sì, buonasera Roberta, innanzitutto complimenti, la trasmissione è molto gradevole. Grazie. Volevo solo aggiungere, secondo me la trasmissione in 2 ore è maggiormente completa, c'è più spazio, si riesce a, come dire, ad approfondire maggiormente gli argomenti. Vado però al punto. Sì. Sul tema Dasselblom e commenti, sì, infelice sicuramente, però anche a riportare la notizia giornalistica dimenticando il come se che aveva detto il Dasselblom cambia completamente, e quindi la si mette molto sul scontro, sul troviamo uno scontro con questo Dasselblom, no? Cioè come sarebbe andata, scusa Nicola? Sarebbe andata che ha detto, sarebbe come se io spendessi i miei soldi a donne e con alcol e poi chiedessi un aiuto. Non è ma al di là, spendono i soldi. Sì, sì, è chiaro, ma al di là di questo, ma non ti sembra estremamente offensivo infelice nei confronti delle donne, prima di tutto? No. Come no, se fossero dei vizi da comprare, come l'alcol, come che so, no, l'hashish. Ma come un'esagerazione? È come un'esagerazione? Se dicessero le donne. Non nei confronti delle donne, non nei confronti delle donne. Beh, Nicola. No, soprattutto nei confronti degli italiani. No. Però dall'altra parte noi abbiamo avuto gli stessi aiuti che hanno avuto gli altri paesi. Io avrei detto gli italiani bancari, se avessi voluto offendere italiani e italiani, avrei detto gli italiani sperperano perché vanno sempre in pizzeria il sabato sera, si divertono, ecco, luoghi comuni, va bene, però senza sempre considerare le donne come una merce da comprare, come l'alcol, come le sigarette. Dai, su Nicola. Consideriamo che il Nord Europa penso che in termini di alcol abbia, io sono veneto, però vabbè, e ti stai spostando ancora su una cosa, no? Quindi donne, alcol, sì, fumo, eccetera. Ecco, questo voglio dire, niente. È stato estremamente offensivo. No, in questo ma non senso. C'entra nulla. Cioè, il tema vero è che l'Italia cresce completamente meno di altri stati, ha avuto gli stessi aiuti degli altri, le banche hanno avuto gli stessi aiuti delle altre banche, le nostre banche hanno sperperato questi aiuti e si sono praticamente ridotte in condizioni. Sì, ma Nicola, pietose. Su questo si poteva fare un ragionamento, ma non una frase così infelice, sì, non però, da però uno che è il presidente dell'Eurogruppo. Non se lo si può permettere. Ha un senso, dopo frase infelice sicuramente. Ma non ci si può però permettere. Hanno chiuso una trasmissione, un rotocalco, hanno chiuso per delle cose infelici, dei pregiudizi sessisti, sì, sulle donne, e si può permettere uno statista europeo di dire queste cose. Però, questo è come dire pacco, tabacco e venere, dai adesso. Beh, non ecco, la vedrei, ma non la rientriamo ma insomma non Nicola, neanche sul maschilismo però, perché metterla sempre sul maschilismo Nicola, su via? No, assolutamente, ma non è sul femminismo, quello, no, ma sul maschilismo sì. No, il tema è questo, Nicola, che poteva dire effettivamente gli stati del sud, non so, hanno approfittato di questo, la Grecia, c'è stata un'evasione fiscale straordinaria. Ecco, si può, a quei livelli si pretende un ragionamento a più alto livello. Grazie Nicola da Padova. Bruno da Bologna. Bruno? Pronto? Prego, pronto? Bruno. Sì. Guardi, telefono da Pordenone, non da Bologna. Da Pordenone, come esatto. questo errore geografico, da Pordenone, benissimo. Vabbè, non c'è problema. Sì. Volevo dire questo. Ieri l'attentato in Francia, oggi quello a Londra. Che siamo qui a contare i morti praticamente e ci dispiace. Voglio dire, se continua così, dove arriviamo? Questi attentati ci sono perché noi non abbiamo contromisure. Questa è una guerra non dichiarata, ma è una guerra. Se questi Bruno, ma secondo te quali sarebbero le contromisure da adottare? Glielo dico subito. Sì. In pratica, io prendo l'attentatore francese, era un ladro, era un rapinatore, ha deciso di concludere la sua vita in bellezza, è diventato un eroe per le persone come lui. e si è fatto ammazzare. Benissimo, tu ti fai ammazzare, vuoi morire, va bene. Però io ho delle ritorsioni verso la tua famiglia. Tolgo, per esempio, è come se lasciare sotto lo scudo del welfare europeo, francese o inglese la mia famiglia, tanto io che me ne frega. Loro sono protetti, hanno buoni ospedali, buone scuole. Non ho capito, tu puniresti le famiglie quindi degli attentatori? Non ho capito cosa vuoi dire, Bruno. Come si fa in guerra? Io, chiaro, Bruno, adesso scusa, chiediamo. Scusa un attimo, sì. Scusa. In Israele gli attentati sono dimezzati perché distruggevano la casa degli attentatori. Allora, sì, andare, allora finché sono degli isolati, dei personaggi così da soli eccetera, non lo so se è una cosa che le democrazie insomma potrebbero avallare. Quando poi si tratta invece appunto di altri individui, per cui è difficile, più organizzati, più strutturati, di organizzazioni più ampie, andare a pescare ogni famiglia di questi, non mi pare. Però sentiamo Bruno da Bologna, ti ringrazio. Sentiamo adesso Alessandro Orsini, che saluto. Buonasera professore. Buonasera a voi. Direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata, docente di Sociologia del Terrorismo all'Università LUISS, che ha scritto il famoso libro ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Non lo so se lei condivide le contromisure dell'ascoltatore di poco fa, ma come siamo messi? Come dobbiamo leggere questo nuovo attentato a Londra e anche insomma in ambito europeo, come dobbiamo comportarci? La guerra all'ISIS sta procedendo in modo efficace? Sì, dai. Intanto grazie della presentazione, però non lavoro più all'Università di Tor Vergata, sono stato acquisito soltanto dalla LUISS. Non mi sono aggiornata. Comunque non si preoccupi, no, ma la ringrazio comunque della presentazione. Diciamo che io piango tutti i morti di Londra e mi stringo intorno al governo di Theresa May, ma le notizie che provengono da Londra sono molto positive. Noi stiamo assistendo al funerale dell'ISIS. L'ISIS aveva realizzato la sua ultima strage riconducibile allo Stato Islamico, con capitale a Raqqa, il 22 marzo del 2016, esattamente un anno fa. L'ISIS aveva promesso che avrebbe realizzato tantissime stragi. Ora, dalla strage di Bruxelles del 22 marzo del 2016 a oggi, io conto 365 giorni. Quindi se fosse vera la propaganda e se fossero fondate le nostre paure completamente infondate, noi avremmo dovuto avere 365 attentati terroristici dell'ISIS, vale a dire uno al giorno. E invece quello che noi abbiamo avuto negli ultimi 12 mesi è il nulla, perché la strage di Nizza del 14 luglio del 2016 è stata realizzata da un lupo solitario che non era in contatto diretto con l'ISIS. Anis Amri, che ha realizzato la strage al mercatino natalizio di Berlino il 19 dicembre del 2016, non era in collegamento con lo Stato Islamico. Che cosa vediamo noi questa sera? Vediamo un comando di terroristi che si coordinano con mitragliatori e cinture esplosive? No, vediamo una persona completamente isolata che realizza un attentato che anche io avrei potuto realizzare, quindi si lancia contro dei passanti, alcuni dei quali purtroppo muoiono, altri rimangono feriti, e poi con dei coltelli si scaglia contro i poliziotti. Ora, se questa è la possenza dell'ISIS di cui tutti quanti parlano, io francamente resto molto perplesso. Ciò di cui noi abbiamo bisogno invece è di ricostruire i fatti per come realmente stanno, non sviluppare narrazioni che sono basate su una distorsione profonda e gravissima della realtà, perché la narrazione che fa la televisione italiana, che fa larga parte dell'informazione italiana e non soltanto italiana, è tutta quanta basata su una rappresentazione completamente falsa dei fatti, perché l'ISIS nei suoi domini in Siria e in Iraq è ridotto a brandelli, ed è ridotto a brandelli anche nelle città occidentali, e c'è una ragione per cui questo accade in Occidente, e la ragione si chiama liberalismo. Cioè, a differenza di quei quello che dicono molti nemici della società aperta, delle società liberali, le nostre società non sono affatto in crisi, anzi si fondano su un tessuto di valori, appunto i valori liberali, che sono possenti e non consentono a valori provenienti da altre culture, come i valori jihadisti, di penetrare all'interno. Infatti, se fosse vero il contrario, cioè se fosse vero che la società liberale è in crisi, che noi siamo tutti quanti travolti da una crisi di valori, che non abbiamo più valori, questi valori jihadisti, che non sono nati nel corpo della nostra società, avrebbero avuto facilità di penetrazione. E invece quello che noi vediamo è che l'ISIS non riesce più a realizzare stragi come quella di Parigi o come quella di Bruxelles, semplicemente perché non ha i militanti, e non ha i militanti perché i musulmani d'Occidente hanno ricevuto un messaggio. Lei deve immaginare l'ISIS e Al-Qaeda come se fossero due partiti politici che si rivolgono a un elettorato potenziale, che in questo caso è fatto prevalentemente di musulmani d'Occidente, al quale dice: voi avete dei problemi e noi vi facciamo una proposta politica per risolvere i vostri problemi, che è quello di farvi saltare in aria come kamikaze. E i musulmani d'Occidente hanno risposto, e sono 20 anni che danno questa risposta, perché prima dell'ISIS ci aveva provato anche Al-Qaeda a partire dal settembre del 2001. I musulmani d'Occidente hanno detto: grazie delle attenzioni che ci rivolgete, però noi non abbiamo alcuna intenzione di abbracciare il credo jihadista, stiamo tanto bene in queste società. Anche i musulmani d'Occidente, che hanno grandi problemi di discriminazione, di razzismo, che vivono nelle balie, semplicemente non vogliono diventare militanti dell'ISIS. E se le cose stessero in modo diverso, dal 22 marzo del 2016 ad oggi noi avremmo avuto una moltiplicazione degli attentati terroristici e soprattutto una crescita delle capacità operative dell'ISIS e dunque anche militari in seno alle nostre città. E invece quello che io vedo a Londra è che c'è un uomo completamente isolato, come è accaduto a Berlino, come è accaduto a Nizza, come è accaduto ad Ansbach e come è accaduto con Adel Kermish, ricorderai il ragazzino che sgozzò il prete cattolico, cioè una persona completamente isolata che si scaglia contro dei soldati con un coltello. Quindi allo stato attuale quello che noi possiamo dire è: piangiamo tutti i morti di Londra, ma le notizie che provengono da Londra sono notizie positive. Orsini, prima di lasciarla, le leggo questo messaggio di un ascoltatore che dice: se l'ISIS sta morendo, a chi giova creare quotidiano allarmismo e aumentare i costi per fronteggiare una cosa che non esiste? O perlomeno, vorrei dire, l'ascoltatore, insomma, che è così... Allora, diciamo, la ragione per cui diciamo, la gran parte delle persone che rappresentano i fatti in maniera distorta sono in assoluta buona fede, lo fanno semplicemente perché non conoscono la mancanza di competenza, di conoscenza, diciamo. Okay. Poi dopo c'è anche l'intenzione, perché chiaramente il fatto che l'ISIS venga rappresentato come un mostro che ci travolgerà tutti consente a una crescita dei profitti per quanto riguarda le consulenze, per cui gli studiosi, facendo credere che l'ISIS è pericolosissimo, guadagnano più soldi, vendono più libri, le trasmissioni televisive hanno un seguito maggiore, quindi la stragrande della maggioranza delle persone è in assoluta buona fede. Poi esiste anche un mercato della paura, per cui c'è un interesse economico a far credere che l'ISIS sia potentissimo, cosa che non è, perché è tutt'altro che potente, perché questo chiaramente crea un business basato sulla paura delle persone. E invece la cultura e soprattutto le università dovrebbero lavorare per liberare le persone dalla paura, perché in Italia noi qualche problema ce l'abbiamo. E quindi non è bello soffiare sulla paura e indurre le persone a credere che stiamo tutti quanti per morire, quando magari in Italia ci sono anche tante persone che sono disoccupate, sono precarie, e noi a queste persone, oltre a una vita già complicata dal punto di vista delle risorse materiali, mettiamo anche delle complicazioni dal punto di vista psicologico. Non è proprio, diciamo, l'operazione intellettuale più nobile che uno studioso possa fare. Chiarissimo, professor Alessandro Orsini, la ringrazio. A presto. Grazie allora. A voi. Grazie professore. Adesso vedo che la prima ministra Theresa May parla, appunto, definisce questo attentato come un attacco terroristico disgustoso e odioso, e vedo che per questo attacco a Londra la torre Eiffel di Parigi è spenta in segno di lutto. Europa, 60 anni dal sogno alla crisi. Quelli che si festeggiano il sabato 25 marzo, ma i ragazzi di oggi rinuncerebbero all'Europa. La politica si riunirà appunto sabato a Roma per i 60 anni dei trattati che ne videro la nascita. Nella quarta puntata di questo nostro viaggio puntiamo lo sguardo sulle generazioni che sono nate già con un'Europa unita. Sentiamo il racconto di Alessandra Schepisi. In 1999, the euro replaced the currency of 11 European nations. Era il primo gennaio 1999 quando l'euro entrava ufficialmente in vigore, seppur ancora non fisicamente nelle nostre tasche. La Banca Centrale Europea diveniva operativa dopo soli 6 mesi di vita. Ma la storia della moneta unica affonda le sue radici nel rapporto Delors, che porta il nome del più noto presidente della Commissione Europea. Quel rapporto fissava 3 tappe per l'introduzione della moneta unica nell'intero arco degli anni 90. Il primo gennaio 2002 l'euro rimpiazzò definitivamente le monete nazionali di 12 paesi, tra cui l'Italia. Il loro numero poi è salito a 19, poco più di due terzi sul totale dei paesi dell'Unione Europea. A 15 anni dall'arrivo nelle nostre tasche, l'ISPI ha effettuato un fact-checking su vantaggi e svantaggi della moneta unica. Per Antonio Villafranca, responsabile programma Europa dell'ISPI, l'euro è stata un'occasione che abbiamo sprecato. L'euro è stata una grandissima opportunità che però noi italiani in buona parte abbiamo sprecato. Se non ci fosse stato l'euro, molti nodi e molte fragilità dell'Italia, dell'economia italiana, sarebbero venuti al pettine molto prima. Noi abbiamo potuto approfittare anche dell'enorme quantità di capitali che prima della crisi economica affluivano in Italia proprio per l'euro. E questo non ha fatto sì che ci fosse una pressione sufficiente sull'Italia per fare delle riforme strutturali, perché in realtà abbiamo potuto posticipare appunto queste riforme garantendo anche il nostro sistema politico. Quindi diciamo che è stata proprio un'occasione sprecata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso allora parliamo di lavoro e giovani, o forse è il caso di dire giovani e autonomia, perché per diventare autonomi i giovani italiani ci mettono sempre di più, come insomma diciamo esperienza un po' di tutte le famiglie. Se un giovane infatti di 20 anni nel 2004 aveva impiegato 10 anni per costruirsi una vita autonoma con un lavoro, quindi una vita sua, nel 2020, tra 3 anni praticamente, ne impiegherà 18, arrivando così all'indipendenza dalla propria famiglia a 38 anni, e nel 2030 addirittura ci impiegherà 28 anni, diventerebbe in sostanza grande, diciamo la maggiore età, a 50 anni. Tutto questo lo si legge in uno studio, lo studio della Fondazione Visentini, che è stato presentato oggi alla LUIS, all'Università LUIS, un dato che tra l'altro è confermato anche dall'Istituto di Statistica Europeo, dall'Eurostat, che segnala come nel 2015 fossero al lavoro nel nostro paese solo il 28,6% degli under 30, a fronte del 47,6% degli under 30 nell'Unione Europea e del 57,7% della Germania, che sappiamo è il paese insomma più avanzato in Europa. Per fronteggiare questa emergenza dell'equità generazionale, questo studio fa una proposta di cui parleremo dopo, ma intanto vorrei commentare questi dati a dir poco allarmanti con il professor Mauro Magatti, che è sociologo economista all'Università Cattolica di Milano. Professor Magatti, buonasera. Buonasera a voi. Le sembrano delle previsioni fondate queste? Ma più che sulle previsioni è utile concentrarsi sul dato di realtà che peraltro ahimè conosciamo già, di una generazione, quella che diciamo dai 20 anni arriva intorno ai 30-35, che sta pagando molto concretamente sulla propria vita il rallentamento che il nostro paese ormai ha da una quindicina d'anni. Quindi e questa è la questione che ci deve interrogare tutti, soprattutto passare dalle parole ai fatti. Ma ai fatti, perché ce lo diciamo, no? I politici ne parlano tanto, ci sono continuamente dibattiti, talk, eccetera, ma qual è la strada secondo lei per non arrivare davvero all'indipendenza di una persona a 50 anni, quando insomma diciamo è un po' troppo matura da un punto di vista anche cronologico, no? Sì, direi proprio di sì. Ma io descrivo così, che se noi guardiamo le tre generazioni del dopoguerra, la generazione di chi è oggi a 70 anni in più, quella della ricostruzione diciamo, è stata capace di accumulare della ricchezza e di raggiungere un benessere che ha passato la generazione dei cinquantenni di oggi, i quali più o meno hanno mantenuto quello che hanno ereditato, e adesso la nuova generazione invece è completamente sott'acqua. Quindi dobbiamo guardare questa cosa in una prospettiva storica. Oggi sappiamo che c'è una grande massa di risparmi che gli italiani hanno accumulato in questi anni per ragioni di sfiducia, di crisi, che sono bloccati perché il paese non riesce più a guardare avanti. Ci vuole un grande patto intergenerazionale, che naturalmente solo la politica può costruire, perché come abbiamo bruciato i risparmi del dopoguerra negli anni 80 con i bot, così adesso troviamo il modo di investire questa grande ricchezza che il paese ha sulle nuove generazioni. Se non facciamo un salto di qualità in questa direzione, ci trascineremo ancora a lungo. Professor Magatti, lei infatti parlava di un patto intergenerazionale. Questo studio Visentini, della Fondazione Visentini, propone questo, cioè di tener conto della cosiddetta maturità fiscale e quindi di dare un contributo solidaristico da parte di chi gode delle pensioni più generose. Questo sarebbe il patto fra generazioni, le pare una cosa, perché dice questo studio, sarebbe doveroso non solo sotto il profilo etico ma anche sotto quello sociale ed economico. Con questo contributo da parte delle pensioni più generose dovrebbe essere possibile definire incentivi fiscali per i più giovani, ma anche la costituzione di un fondo di solidarietà per le politiche giovanili. Mi sembra una buona soluzione? Sì, questo diciamo non è la soluzione, questo è un pezzo di una soluzione che ci può tranquillamente stare, va costruito, però io credo che la situazione che ormai sta colpendo l'Italia e soprattutto questa nuova generazione è tale per cui dobbiamo immaginare veramente uno sforzo straordinario. E soprattutto, come dire, capire che il discorso della solidarietà tra le generazioni in questo momento è vitale. Quindi diciamo dobbiamo parlare a noi adulti e ai nonni, che fanno già molto, e trovare il modo per accelerare, diciamo, garantendo naturalmente le persone anziane, accelerare il più possibile il trasferimento della ricchezza che sta ancora nelle mani di chi ha più di 50-60 anni verso le generazioni più giovani. Questa è un'azione politica, non ci può essere una soluzione di questo genere se non dentro un contesto che garantisce le diverse parti e soprattutto assicura che questo trasferimento di ricchezza non si disperda in mille rivoli, ma appunto sia il trampolino su cui la nuova generazione possa ripartire. Sarà da capire se la nostra classe politica è all'altezza, insomma, di un progetto così ambizioso. Comunque la ringrazio intanto, professor Mauro Magatti, ricordo, sociologo ed economista dell'Università Cattolica di Milano. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Salve. E così abbiamo trattato anche questo tema in questo speciale di Effetto Notte, dalle 21 alle 23 eccezionalmente, anziché dalle 21 alle 22, che ci dà modo così di, a parte sentire anche le vostre opinioni come abbiamo fatto fino adesso, ma anche di collegarci ogni tanto con Londra per degli aggiornamenti. Intanto continuano i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della sparata del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Dice Simone: è la dimostrazione che la crisi europea è anche una crisi di classe dirigente, personaggi inqualificabili sono ai vertici di molte istituzioni nei singoli paesi e nell'Unione Europea. Margherita dice: il sessismo è sempre più dilagante perfino nei paesi democratici e moderni, vedi Stati Uniti e Europa. Ma adesso c'è la nostra Giorgia Scaturro ancora da Londra. Ciao Giorgia. Sì, buonasera. A proposito sempre... Sì, sono ancora qui ad aspettare i nuovi aggiornamenti da Scotland Yard dopo che Theresa May, il primo ministro britannico, è intervenuta commentando ovviamente i fatti di oggi. Però al momento si sa, come riportato appunto dal primo ministro, che l'attentato è stato iniziato da un solo attentatore. Si cerca di capire se potrebbero esserci dei complici ancora in circolazione e se ci sono più notizie sull'identità dell'attentatore che poi è rimasto ucciso nell'attentato. Giorgia, leggevo anche di studenti francesi che sono rimasti feriti. Sì, al momento purtroppo ci sono anche degli aggiornamenti per quel che riguarda i feriti, almeno dalla Francia arrivano conferme che almeno tre studenti francesi sarebbero feriti. Dei 20 feriti che sono stati confermati, pare che 12 siano in condizioni critiche, quindi purtroppo il bilancio delle vittime di questo attentato è destinato forse a salire. Perché finora abbiamo detto che sono appunto 3 le persone uccise e 20 feriti, di cui tu stai dicendo una dozzina anche gravemente. Sì, 12 in condizioni critiche. 3 i morti, 2 persone sul ponte di Westminster dove il SUV ha cercato di colpire le persone, un agente di Scotland Yard accoltellato davanti al cancello del Parlamento. C'è da sottolineare che lo stato di allerta non è stato innalzato da severo, così com'è dal 2014, a critico. La stessa Theresa May, il primo ministro, ha detto che lo rimarrà severo anche alla luce di ciò che è successo oggi, e domani il Parlamento riaprirà come da norma. Giorgia, diceva un ascoltatore, mi è sembrato che abbiano reagito in Gran Bretagna, diciamo, in modo molto, molto british rispetto a quello che succederebbe in Italia. Vabbè, insomma, diciamo, intanto al di là di queste divagazioni, però lì l'atmosfera in Gran Bretagna, i media anche, come affrontano un evento come questo? Ebbene, in realtà c'è da dire che noi da giusto una settimana fa erano uscite notizie di quanti attentati sono stati sventati negli ultimi 4 anni, che ammontano a 13. Quindi qui non dico che era previsto, ma ci si aspettava lo stesso livello di allerta allo stato severo, vuol dire che un attentato è molto probabile. Ora, detto questo, comunque un certo shock anche per come i media riportano l'attentato di oggi è comunque nell'aria, più che altro per le modalità, per il fatto che è stato colpito il cuore della democrazia, certo, così il come Parlamento, anche il Parlamento. E quindi davvero non si sfugge, è uno dei posti più sicuri, e quindi siamo consapevoli che non si sfugge, quindi si va avanti, si vive in questa sorta di normalità che però non sarà mai una normalità. Grazie Giorgia Scaturro da Londra, e poi gli altri aggiornamenti li sentirete. Ciao Giorgia, ringrazio Andrea Roccabella la parte tecnica, Cristian Goldoni, e domani è un altro giorno, Roberta Giordano come sempre vi dà appuntamento alle 21.